Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. È la settimana di un derby che solo un mese fa avrebbe visto in palio il prestigio e che invece ora peserà e come in chiave scudetto. Non solo, è un derby anche paradossale se si pensa al rapporto di forze con cui la stagione era partita e poi si era sviluppata nei primi tempi, perché se esaminiamo il grafico di rendimento del 2010, per esempio, di queste tre partite giocate in questa metà scarsa di mese, il Milan ha battuto 5-2 il Genoa, ha vinto 3-0 a Torino con la Juve e ha battuto 4-0 il Siena. Contemporaneamente l'Inter ha vinto 1-0 a Verona col Chievo, ha visto la morte in faccia col Siena, no, mi pare, e poi l'ha rivista a Bari prima di centrare un'altra splendida rimonta finale. Insomma, da un punto di vista appunto di rapporto di forze attuale, si direbbe, anzi credo si possa dire, che favorito in questo momento sembra essere il Milan, che è un paradosso, ma l'altro paradosso è che spesso e volentieri in un derby chi è favorito poi, cioè chi entra nel derby da Papa poi ne esce cardinale, no? In genere, a meno che non ci siano rapporti di forze clamorosamente sproporzionati, e non mi sembra la situazione di questo momento. Ne parliamo più avanti anche attraverso poi i vostri interventi in diretta, perché il martedì, come sapete, si apre con lo spazio all'appuntamento del calcio degli altri. L'appuntamento col ministro degli esteri Fabio Tavelli. Buongiorno Fabio. Grazie Gigi, buongiorno a tutti. Allora, sommario, io ci metterei la FIFA e Harry, il licenziamento di Zico dalla niente meno che dall'Olympiakos in Grecia, la bocciatura di Cellino che è diventata ufficiale poco fa, una curiosa proposta dei proprietari del Manchester United ai propri giocatori, e Manchester che stasera alle 20:45 gioca il derby con il City, quindi il primo derby inglese di Mancini, e poi di Mancini, e poi il Messi Real Madrid e varie assortite. Partiamo dalla FIFA e da Henry. Tanto rumore per nulla alla fine, visto che nessuna sanzione è stata adottata, come era d'altra parte scritto nel Vecchio Testamento nei confronti di Henry. Tantissimo rumore per nulla, diciamo, perché si è passati dalla wild card da dare all'Irlanda, alla possibilità di ripetere la partita, a una squalifica esemplare, a tutto il resto. Io trovo che passando il tempo la sensazione da osservatori è stata quella che ogni giorno che passava era un giorno che lavorava a favore di una versione un po' pilatesca, nella quale la FIFA non voleva entrare per non creare un precedente, nella quale la federazione francese tutto sommato le sue pedine le ha mosse, quindi diciamo che vogliamoci tutti bene, andiamo avanti così, dimentichiamoci alla prima possibile. Direi che soprattutto la FIFA non voleva creare un precedente, non lo voleva creare con quella cosa un po' bizzarra che era saltata fuori prima del sorteggio, di immaginare una squadra in più, una sorta appunto di wild card da concedere agli irlandesi, a maggior ragione nel momento in cui è stato deciso che comunque il verdetto del campo e le decisioni dell'arbitro erano sacre e inviolabili, quando anche poi da parte UEFA si è continuato a ripetere che la moviola in campo non ha senso e non è voluta. Allora a quel punto lì era evidente che poteva essere punito soltanto il giocatore. Evidentemente si è scelta la strada di premiare la carriera di Henry, di non infierire su di lui, di non volere neanche creare qualche pasticcio, magari far scontare la squalifica in qualche amichevole internazionale prima del mondiale, e quindi alla fine è passata la festa e gabbato tra pattoni. Gabbato all'Irlanda. Ad Atene. Questo esonero è abbastanza apparentemente curioso, perché Zico è stato licenziato dall'Olympiakos a causa dei risultati non buoni, come comunica il club. In effetti, per esempio, domenica hanno pareggiato 0-0 in trasferta, però la squadra è seconda in classifica e quindi questo renderebbe abbastanza assurdo il provvedimento. Io ricordo che qualcosa di analogo toccò, se non sbaglio, a Bigon qualche anno fa, alla guida sempre dell'Olympiakos. Perché? Perché oggi come allora, forse allora erano meno i punti di distacco, sono 7 dal Panathinaikos. Sì, ecco, è un campionato, mi pare di capire, Fabio, in cui contano solo quelle due, quindi se una delle due è seconda caccia l'allenatore, nel dubbio. Ma sai, effettivamente è così, cioè nei campionati dove chi arriva secondo ha perso è così, sono 7 punti, sono tanti, quindi insomma, Zico ha una carriera con alti e bassi da allenatore, per cui è, cioè, un po' giramondo, allenato nazionale, allenato in Turchia, allenato in Grecia, insomma non ha ancora una credibilità così alta. Devo dire che lui agli ottavi di finale di Champions League si è qualificato e quindi giocherà tra l'altro contro il Bordeaux, partita difficile ma non impossibile, quindi diciamo che il suo successore avrà il vantaggio che comunque andar male arriva secondo e magari riesce a centrare un colpo in Champions League e diventare santo subito. Onestamente devo dire il campionato greco lascia spazio a riflessioni tanto al chilo, nel senso che è una realtà difficilissima, è una realtà che per noi anche per motivi linguistici è veramente difficile da capire e quindi sinceramente faccio fatica ad addentrarmi in un'analisi che non sia abbastanza banale, quindi... marginale, siamo alle perfide dell'impero, rimane comunque quella curiosità. L'impero britannico è ben diverso e quindi si capisce la delusione di Cellino che era sembrato a un passo da rilevare il West Ham, e invece il West Ham è finito agli ex presidenti del Birmingham City, che hanno rilevato il 50% del pacchetto azionario per circa 55 milioni di euro, e quindi lo sbarco del primo presidente italiano in Premier League è rinviato per il momento. Sì, ma Cellino 3 giorni fa era in chiara pole position, lo scrivevano tutti i giornali inglesi, poi evidentemente gli altri o sono stati più veloci gli altri oppure lui non era così convinto. Devo dire che la mossa di far filtrare il fatto che sarebbe stato subito cacciato Zola e portato a Rigoni non l'ho trovata geniale. Magari non è neanche tutta colpa di Cellino, magari non è stato lui a volerla mettere in giro, però insomma non è stato bellissimo. Devo anche dire che Zola non è sicurissimo di rimanere sulla panchina del West Ham. In nessun caso, no, certamente con Cellino sarebbe stato cacciato perché i loro rapporti sono pessimi. Certo. E, può venire mandato via lo stesso perché pare che Old abbiano incontrato già un paio di volte Hughes, l'ex allenatore del Manchester City, e questo potrebbe voler dire che loro hanno già in testa chi prendere, anche di un ritorno di Carbishley che già salvò il West Ham 3-4 anni fa, si è parlato. Mi sembra tutto molto ingeneroso perché Zola onestamente davvero più di quello che sta facendo credo sia impossibile. Penso che Hughes abbia voluto aspettare o voglia aspettare le mosse di mercato per cercare di capire quanto questi nuovi proprietari debbano investire, cioè possano investire, e quanto in realtà debbano metterci per coprire il debito che è una voragine. Perché diciamo che il comune denominatore delle squadre inglesi in questo periodo è il debito per la maggior parte, no? Certo. E quindi lui stesso ci penserà bene, secondo me, prima di accettare. Adesso parliamo, tra poco parliamo di un altro debito. Ma mi informa Franco Piantarina che Bigon era addirittura primo all'Olympiacos, primo in classifica quando fu esonerato. Un giorno o l'altro lo ripasseremo direttamente con l'interessato, perché è un vecchio amico ed è da un po' che non torna ad esibirsi a questi microfoni. Dicevo a Fabio Tavelli, ma soprattutto agli ascoltatori, di questa rivelazione del Sun, che sappiamo bene non essere il Vangelo, ma spesso comunque con una discreta frequenza prenderci, secondo il Sun il proprietario del Manchester United, Glazer, avrebbe chiesto ai giocatori, stante la zavorra di 550 milioni di euro circa di debiti, avrebbe chiesto ai giocatori di comprare dei pacchetti di obbligazioni da 50.000 sterline con una rendita annua del 7% per aiutare i giocatori, ma anche tutti i dipendenti del club, per insomma aiutare il rientro dai debiti. Molti sono confusi, ha dichiarato una fonte anonima interna al club, molti dei giocatori, perché non riescono a capire come sia possibile che i loro datori di lavoro si rivolgano proprio a loro giocatori per avere liquidità. Fabio, questo al di là poi della trovata vera, forzata, presunta, però la situazione del Manchester comincia a essere pesante da questo punto di vista. Sì, è pesante, anzi è pesantissimo, perché queste cifre sono abbastanza verosimili e qui la sensazione è che davvero i proprietari americani siano in grossa difficoltà, al punto che, facciamo un passo indietro, intanto quando loro arrivarono e quando rilevarono la proprietà del Manchester United ci fu una sommossa popolare da parte dei tifosi dei Red Devils che non li volevano proprio, cortei per strada e tutto il resto. Addirittura in questi giorni un gruppo abbastanza numeroso di tifosi ha chiesto chiesto ad Alex Ferguson di dimettersi per dare un segnale di contrasto a questa proprietà, ma tra l'altro con richiesta che io giudico assurda, intendiamoci, dicendo, beh, insomma, se siccome tu, Ferguson, sei un socialista, quindi sei una persona che è portata alla solidarietà, al welfare e a tutto il resto, siccome la pensi come noi da questo punto di vista, noi vorremmo che questi americani se ne andassero, tu dovresti dimetterti per dare loro un segnale e quindi costringerli ad andarsene. È una cosa un po' cervellotica, ma va bene, la registriamo. La cosa vera è di questo prestito obbligazionario, che è curioso ed è bizzarro, nel senso che ci sta di fare un prestito obbligazionario, e loro lo hanno già fatto, perché comunque il Manchester United a tutti gli effetti è un'azienda, e come tutte le aziende, come possono essere le banche, come possono essere le aziende che hanno bisogno di reperire liquidità, possono collocare sul mercato dei prodotti finanziari come le obbligazioni e garantire una rendita. Devo anche dire che la rendita annua del 7% mi sembra altissima, e quindi cioè, si può finire strangolati anche dal fatto di dover pagare interessi certo. Così alti, perché non mi pare che, cioè, io sinceramente, se mi proponessero un'obbligazione al 7%, uno ci può pensare, se consideri che i bot ormai certo. non rendono più neanche un euro, e allora uno dice vabbè, insomma, meglio di niente, il 7% lo prendo. Ora bisogna vedere se poi queste obbligazioni vengono rimborsate, e questo è il rischio vero. Quello è sempre il problema. Ma per concludere su questo argomento, la cosa pazzesca è che lui le abbia proposte ai suoi giocatori e ai suoi dipendenti. Sì. Cioè, non è pazzesca, nel senso che non è inedita, però è abbastanza strana questa cosa, che lui si aspetti che Wayne Rooney sappia di ricevere il prossimo mese uno stipendio, e con parte di questo stipendio che sia in realtà dei soldi che lui ha investito. Sì, sì. E che quindi non rientrano più, perché poi gli stipendi sono dei costi fissi. Certo. che non lo so, guarda. Senti, dalla finanza, Fabio, torniamo al pallone per concludere questo tuo intervento di oggi. E il pallone in questo momento vuol dire, lo sappiamo, no? Ormai da un annetto comodo vuol dire Barcellona innanzitutto, e vuol dire Messi. Messi è arrivato a 101 gol. Sabato sera con la doppietta nel finale, ma 101 gol in 187 partite nel Barça. Ora, a parte il fatto che appunto è il più giovane di tutti i tempi, adesso ci direi tu altri numeri, altre curiosità, ma quello che trovo sbalorditivo, oltre alla qualità dei suoi gol, è questo: che lui non era nato come goleador, anzi, soprattutto nei primi tempi si pensava che sarebbe stato un giocatore che avrebbe segnato abbastanza poco, perché giocava lontano dalla porta, perché sembrava non avere il fiuto del gol, sembrava avere altre straordinarie doti, ma non quella. Quindi, se c'è stata questa accelerazione e se la salute l'assiste, chissà dove può arrivare questo pazzo fenomenale. No, lui non esiste un parametro per pensare o per capire quanti gol lui possa segnare. Considera che lui è già in questo momento il PCC della Liga insieme a David Villa. Ha sì. segnato 14 gol, 11 di piede e 2 di testa e 1 su calcio di rigore, che curiosamente è lo stesso score di David Villa, che è un giocatore non molto più... cioè, qualcosina più alto di Messi, non ci vuole molto per la verità, ma è un giocatore che ha caratteristiche completamente diverse, in quanto è effettivamente molto più attaccante. Io trovo che sia anche il gioco del Barcellona che favorisce in questo caso Messi, cioè Messi favorisce il Barcellona in quanto campione meraviglioso, ma è anche il tipo di gioco, cioè un tipo di gioco che va spesso sulla triangolazione, spesso sulla verticalità e sempre in velocità ad aiutare Messi, perché i gol che lui ha segnato nell'ultima giornata di campionato nascono proprio da un possesso palla quasi vorticoso che lo porta a sfruttare al meglio la sua capacità di tenere il pallone incollato al piede e di poter concludere in velocità senza aver troppo bisogno di caricare il piede, che solitamente è il sinistro nel suo caso, e questo lo porta a poter concludere verso la porta tantissime volte. Io trovo che lui, sia con i pallonetti sul portiere in uscita, ma anche con la capacità, davvero la velocità fuori dal comune, di riuscire a caricare la gamba e a concludere secco subito, lui sia in questo momento inarrivabile da questo punto di vista. E quindi penso anche che se la salute lo assiste, e se la salute assiste noi per darci la possibilità di vederlo, ci sia la possibilità altissima di vederlo arrivare a 200 gol molto molto rapidamente, e poi chissà quando, perché comunque questo qui è ancora un ragazzino e può ancora migliorare. Se per sbaglio dovesse crescere anche su altri fondamentali che adesso, sui quali adesso si esercita un po' di meno, che possono essere gli inserimenti per i colpi di testa. Non occorre essere alti 2 metri per colpire bene in testa, la storia lo insegna, o anche migliorare in altre situazioni, insomma, questo ne può fare 300-400 comodamente. Chiudiamo rapidamente con l'appuntamento di stasera, e cioè con il primo derby inglese di Roberto Mancini a Manchester, in Coppa, mi pare sia, no? Sì, in Carling Cup, è la gara d'andata della semifinale, delle semifinali c'è già stata, e sono state tutte partite riportate, spostate in avanti, perché adesso finalmente in Inghilterra pare che, insomma, le condizioni meteorologiche siano migliorate. È una partita interessantissima perché il Manchester United comunque è già uscito dall'FA Cup, e la Carling Cup diventa l'unica coppa nazionale alla quale può ambire. Il Manchester City, dopo subito la luna di miele con Mancini, ha trovato la prima sconfitta contro l'Everton nel weekend, e quindi ovviamente tutti i detrattori di Mancini, che erano stati zittiti per una quindicina di giorni, adesso hanno ricominciato a dire che insomma, tutto sommato, questo italiano forse non è questa gran cosa. Credo che sia in realtà questo il primo vero grande test per Mancini, intanto perché si confronta con Alex Ferguson, intanto perché si confronta su 2 partite andata e ritorno, e anche perché, insomma, se dovesse andare in finale potrebbe immediatamente presentarsi a giocare la finale, e chissà mai anche ad alzare una coppa. Sai, alzare subito un titolo, alzare subito un trofeo alla prima stagione per qualsiasi allenatore importante. Fa sempre così Mourinho al primo anno. Certo, fa sempre un bel effetto. Grazie Fabio. A voi, buona giornata. Chiudiamo questo collegamento con Fabio Tavelli, con Sky Sport. Direi un ascoltatore e poi un rapido riassunto e un'anticipazione degli argomenti della seconda parte del programma. Anche 2 ascoltatori, se il primo è rapido. Giorgio Prato, buongiorno. Sì, buongiorno a lei, dottor Garanzini. Una cosa non mi riesce di capirla. Siccome tutte le volte che si invoca un qualsiasi cambiamento di regolamento, l'introduzione di qualche mezzo tecnico, si invoca come totem la famosa International Board, no? che è l'unica deputata a eccetera eccetera. La soluzione di Henry per il gol segnato con la mano. Se io non ho capito male, stamattina nel dispositivo viene detto: in quanto la prova televisiva può essere utilizzata soltanto per fatti di condotta violenta sfuggita alla quaterna arbitrale. Uh-huh. Allora io mi domando, siccome io sono tifoso viola, peraltro, il buon Gilardino 2 anni fa, 1 anno e mezzo fa, ha giustamente pagato con 2 giornate di squalifica, ingiustamente invece con la patente di colui che simula, o peggio ancora, quindi non gli viene più dato un calcio di rigore, neanche se viene abbattuto a pallettoni. Dove sta allora la verità? È quello che dice la sentenza di Gilardino, o è quello che dice la sentenza di assoluzione? Io sono più per la sentenza Gilardino, le dirò, che non per questa, però non è la prima volta, e non sarà nemmeno l'ultima, temo, che in materia di giustizia sportiva, in questo caso per fortuna, vengono usati per ragioni politiche, in questo caso, nel caso Francia-Irlanda, pesi diversi rispetto ad altri parametri. Il primo intervento non era breve, era anche di chiaro stampo tifoideo, e allora il secondo, Vittorio da Parma, aspetterà, mi auguro, e gli chiedo scusa sin d'ora, qualche minuto di intervallo. Volevo riassumere gli argomenti della seconda parte. Per esempio, che fine ha fatto la prova TV, si domanda stamane Repubblica, e mi pare una gran bella domanda alla luce di un paio di episodi della scorsa settimana. Poi abbiamo detto prima del derby, volevo fare gli auguri personalmente a Mauro Tassotti, che compie oggi 50 anni e che è uno dei, come spesso qualche ascoltatore scrive, è uno dei segreti di questo Milan, non c'è dubbio. Ho letto anche stamane che ufficialmente, mentre Leonardo si occupa soprattutto degli schemi d'attacco, Tassotti si occupa ufficialmente dell'organizzazione difensiva. Parleremo delle multe che continuano a riguardare la Juventus, parleremo di una crisi di nervi di Oriali, ma ne parleremo solo in maniera molto marginale. Vi dicevo della prova televisiva, che evidentemente secondo Repubblica è diventata una farsa. Sì, no, non è inedito come concetto, perché insomma non è da oggi purtroppo che è così. È vero però che nell'ultima settimana ci sono stati 2 falli, 2 scorrettezze molto gravi, sfuggite agli arbitri, che erano evidentemente, proprio perché sfuggite agli arbitri, da casistica di prova televisiva. Uno, lo scorso mercoledì in Coppa Italia, quando Contini aveva pestato la testa di Del Piero a terra in maniera molto, molto palese e molto evidente. Un altro domenica in campionato dove, forse data l'impunità di Contini, l'Ixtiner della Lazio ha pensato bene di fare la stessa cosa su Peluso, giocatore dell'Atalanta, a terra a sua volta. Cosa succede in questi casi? Che gli arbitri non vedono, e questo è il primo presupposto per l'intervento della prova televisiva, ma la prova televisiva non può essere non può intervenire il giudice sportivo Tosel direttamente se i sostituti procuratori di Stefano Palazzi non segnalano nulla a lui, cioè al giudice sportivo. Parliamo di separazione delle carriere così a grandi linee, no? visto che la vogliono bene, nessuno ha segnalato nulla. E quindi Tosel non ha potuto intervenire in materia. Se non si interviene passeggiate autentiche sul collo, sulla nuca, eccetera, di avversari a terra in maniera così gratuita e così violenta, è evidente che tanto vale abolire la prova televisiva per fatti gravi. Se invece poi parliamo di pesi e misure, è divertente quella del laser, perché il Bari è stato punito con un'ammenda di 15.000 euro per aver usato un apparecchio laser che disturbava il portiere avversario. La stessa cosa è stata fatta da tifosi del Napoli in occasione del calcio di rigore battuto da Miccoli, ma il giudice sportivo in questo caso non ha sanzionato la società, perché la società stessa ha contribuito ad individuare il responsabile. E anche qua qualche dubbio, qualche domanda è pur lecito farsela. Tocca a Vittorio da Parma, buongiorno. Dottor Garantini. Dica. E grazie dell'ospitalità che mi permette di esternare e focalizzare quanto segue. Settimanalmente seguo il calcio giovanile professionistico e con mio disappunto desidero sottolineare la negligenza di molti arbitri, 8 su 10, permettono con indulgenza la provocazione più becera sistematicamente per tutta la partita. Per provocazione si intende fermare l'avversario con le mani in tutte le zone del campo, calci mirati nelle caviglie, comitati, sputi, minacce. E quando l'arbitro viene richiamato da chi subisce questo genere di sublime sportività, con disinvoltura l'arbitro invita a non reclamare e continuare a giocare, cioè a subire. Naturalmente a subire sono chi è bravo tecnicamente. Ho visto di recente un ragazzo di 17 anni uscire in barella e trasportato in ospedale per accertamenti dopo aver subito falli da macelleria, mi sono documentato. Aveva una caviglia gonfia e un ematoma alla coscia evidentissimo, per fortuna senza rotture. Il conduttore Mario Mattioli, il 90° minuto Serie B, anche egli ha focalizzato la pericolosità dei falli da dietro e non sanzionati con il rosso per la negligenza degli arbitri di quelle partite evidenziate nei filmati. Se l'esempio deve partire dall'alto, ahimè, non sono meravigliato se gli stadi sono sempre più vuoti. Quando il regolamento vieta... Vittorio, le chiederei di saltare qualche riga, perché il tempo passa. Quando il regolamento vieta va punito anche se è il primo fallo, senza indulgenza, come fanno i vigili e i poliziotti, la loro professione. Ho assistito, e qui concludo, sì, a una finale di categoria primavera a Maranello tra Ajax e Manchester. L'arbitro ha usato il fischietto dopo 35 minuti dall'inizio, contrasti ne ho visti, ma niente di sceneggiate, odiose proteste all'italiano o porcherie varie. Sì, è un problema complesso questo. Lei ha messo l'accento inizialmente sulla scarsa repressione del gioco violento che c'è a livello giovanile, poi alla fine altre considerazioni non erano secondo me dello stesso segno. È un problema molto complesso, per quello che riguarda il calcio giovanile. Il calcio giovanile è un settore in cui le mani bisognerebbe mettercele da molte parti, non solo da questa. Certamente il gioco violento va stroncato, altrettanto certamente, come spesso si sente ricordare anche da allenatori illustri, il calcio è uno sport di contatto e il contatto fisico è ammesso e certe volte è bello che ci sia, certe volte è troppo tollerato. Il confine di valutazione è sempre molto, molto sottile, e quindi io sarei più dalla parte sua, cioè più per la repressione a prescindere del gioco duro, però lei stesso dice che lei stesso ha citato un episodio in cui due grandi squadre giovanili di scuole particolarmente prestigiose in più di mezz'ora non avevano ancora commesso un fallo. Non è facile. Pasquale da Bologna. Ah, ecco, Pasquale, l'ascoltatore di ieri, perché ogni promessa è debito. Ieri purtroppo chi l'ha preceduto era stato un po' verboso e tocca a lei con 24 ore di ritardo. Buongiorno. Buongiorno. Dica. Intanto la ringrazio per l'ospitalità. Ci mancherebbe, anzi. Io sono napoletano, ovviamente abito a Bologna, come tanti napoletani migranti, no? E niente, io volevo intervenire sul sul discorso di ieri in Tamparini, diciamo, no? Cosa che sinceramente tutte le esternazioni di Zamparini fanno veramente, a volte veramente fanno ridere, a prescindere di rigore c'era, non c'era e quant'altro, no? Ma il fatto di dire, per esempio, un uomo che non capisce di calcio, il presidente De Laurentiis, può anche essere, cioè nel senso che lui è da tanti anni rispetto a De Laurentiis nel mondo del calcio, però non ha mai vinto niente, non so perché, comunque. Vabbè, ma non è vincere e capire non sono parenti, Pasquale. Sì, cioè i risultati sono quelli che contano anche nel calcio. Sì, ma no, lei non può dire però che solo chi vince capisce, perché sennò siamo su una china molto ma molto pericolosa. Calcio ovviamente deve anche vincere, cioè nel senso che deve fare dei livelli altissimi. Facciamo così, Pasquale, vabbè. Per squalificare Zamparini, visto che ieri avevo anticipato qualche sua frase, ascoltiamolo, basta, abbiamo qua un frammento che mi hanno proposto stamane. Io sinceramente ve lo risparmiavo volentieri, e invece, visto che lei l'ha chiamato in causa, così, giusto per avere una documentazione. Una partita nella quale Orsato ha danneggiato il Palermo perché se l'ha cagata sotto quando doveva fischiare il secondo rigore, che era rigore a 2 metri e non l'ha fischiato. Come si giudica un arbitro quando fa così? Io dico, sono buonista, e dico se l'è fatta sotto. Quest'anno me ne hanno fatti 10 di torti, e io dico lo stesso che stanno migliorando. Solo che questi arbitri qui vogliono dare coraggio. L'altro ieri Rosetti ha avuto il coraggio di fischiare 2 rigori di fila contro l'Inter. Orsato che va ad arbitrare i dilettanti. Questi sono i padri nobili del calcio italiano, no? Fermo restando che quel secondo rigore che Zamparini invocava aveva qualche ammissibilità, quando invece secondo me non c'era il primo, ma questo vorrebbe dire scendere sul terreno appunto degli Zamparini. Grazie Pasquale, andiamo in provincia di Brescia da Federico, buongiorno. Buongiorno signor Zamparini. Signor Zamparini. No, prego. Allora, io non vorrei essere come il primo interlocutore che leggeva. Io parlo col cuore, sono tifoso juventino e vorrei rispondere a quegli intelligentoni che vanno allo stadio. E vorrei ricordare che i signori Moggi e C, che stanno inneggiando a furor di popolo, ci hanno mandato in Serie B e dovevano andare in Serie C. I certi bidoni che giocano in questa squadra li hanno comprati anche loro. Quindi i danni di immagine che stanno recando la società, che mi sembra che siano arrivati a 165.000 euro di multa, questi soldi potrebbero essere investiti in modo proficuo dalla società o dati in beneficenza alla ITI, non lo so, è un esempio. E continuino su questa strada questi intelligentoni e dopo vediamo dove andiamo a finire. Bisogna avere intelligenza nel capire le cose, esonerare un allenatore come Ciro Ferrara, che è giovane, io a freddo ero su quella linea, ma ditemi voi, forse neanche il Padre Eterno facendo un miracolo riuscirebbe a buttare a giocare 20 giocatori che sono infortunati, io non lo so. Lei che dice? Ma io dico che è un po' più complessa di così, Federico. Io condivido la prima parte. Se crede, le leggo parte di due o tre frammenti di un carteggio che ho avuto con un tifoso juventino in questi giorni. Si chiama Paolo Dell'Oste, ha scritto da Udine. E aveva scritto una cosa tipo: da ragazzo ricordo di aver pianto la notizia della morte di Scirea, e ricordo poi la felicità che provai la notizia che la curva dei tifosi juventini allo stadio venisse intitolata a un giocatore così elegante, rappresentativo ed educato, un vero signore. Oggi ad abitare quella curva non ci sono dei tifosi. Io provo, ha continuato, un profondo imbarazzo nel leggere i comportamenti di queste masse, eccetera eccetera. Mi auguro che qualcuno prenda provvedimenti forti e contromisure definitive. Mi auguro ci si possa dire juventini come me senza dover abbassare lo sguardo per questo. Io gli ho risposto che tra le iniziative possibili, beh, insomma, una raccolta di firme di veri tifosi juventini per sbattezzare quella curva, no? E in attesa poi di ridestinarla o di ribattezzarla a Pulizia Venuta, sarebbe stata una bella iniziativa. E questo ascoltatore ha controrisposto dicendo che, pur di non darla vinta ancora una volta a questi insopportabili microcefali, proverò a muovermi in tal senso. In effetti non ci avevo mai pensato. Magari magari sarà un'iniziativa che riguarderà anche altri, che altri decideranno di adottare. Questa è un'iniziativa formale, poi ce ne sono di sostanziali. Io quando ho letto la scorsa settimana Blank dire che è ora di riportare la polizia negli stadi, ero da un lato sicuro che nessuno l'avrebbe seguito, e infatti tutti sono voltati dall'altra parte e hanno chiuso le orecchie, dalle massime autorità fino ai piccoli presidenti, per pura combinazione. Mi è sembrato l'inizio di una svolta, perché ho l'impressione che il calcio italiano abbia creduto, come avevo sempre sostenuto, un po' troppo presto di essere maturato e di potersi permettere gli steward e le barriere battute e tutto il resto, insomma, perché presupponeva un livello di civiltà che non abbiamo. Andrea, provincia di Milano, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini, complimenti per la trasmissione. Vi sento sempre, tenete molta compagnia e siete molto competenti, se devo dire la mia. Volevo farle due domande, dottore. Io sono tifoso dell'Atalanta di Trezzo sull'Adda e volevo chiederle in primis se secondo lei quest'anno la mia Atalanta riuscirà a fare il miracolo di salvarsi, visto il cambio dell'allenatore e la positiva partita di domenica. E in secondo, se non siamo stati un pochino penalizzati come società, parlo dell'Atalanta, dall'avere uno dei più giovani presidenti, che io rispetto moltissimo, della Serie A, e magari non ha oggi quel peso che il Babbo Ruggeri aveva in passato. Questo può anche darsi, però accollarsi una responsabilità di una società di Serie A trovandosi al fronte all'improvviso per una disgrazia come quale quella che ha colpito suo padre rende ancora più meritoria, secondo me, l'opera di Ruggeri Junior. E questa è una. Sull'altro fronte, credo che l'Atalanta ce la possa ampiamente fare, perché se guardo gli organici delle squadre che stanno lottando mi sembra sinceramente superiore, o comunque più rassicurante. Poi tutto si giocherà sul filo dei punti. Sono due recuperi di campionato domani a Bologna-Atalanta e a Genova-Genoa-Bari. Quest'ultimo già, come dire, riscaldato dopo il gelo per cui era stato rinviato, riscaldato dalla vigilia del presidente Matarrese Barese, che ha detto ufficialmente: ho chiesto ai miei giocatori di scendere in campo a Genova e giocare una grande partita, perché questa partita si doveva giocare il 20 dicembre come da regolamento. L'arbitro doveva andare sul campo allora e constatare la situazione, invece il questore rinviò la gara. Spero che su questo errore si interroghi chi ha aperto un'inchiesta, perché sul campo non c'era neve. In effetti domani si chiude a distanza di un mese un capitolo non bellissimo di questo campionato. Il ripasso di storia: il 19 gennaio affidato a Nicola Filippone. Sembra ieri. 19 gennaio 1958. La Juventus di Charles Essivori, campione d'inverno, incappa in una pesante sconfitta per 4-1 in casa della Roma. A spianare la strada al successo giallorosso è un episodio singolare. Al terzo minuto, il bianconero Rino Ferrario ferma il pallone con le mani nella sua area, convinto di aver sentito un fischio che l'arbitro Campanati non aveva effettuato. Il rigore viene trasformato dal terzino Giovanni Griffith. Le altre reti della Roma sono realizzate da Da Costa e Loiodice, autore di una doppietta. Dopo la pesante sconfitta, i bianconeri si rimetteranno presto in marcia verso il decimo scudetto, che conquisteranno con un vantaggio di 8 punti sulla Fiorentina, seconda classificata. E fu quello lo scudetto della prima stella. La moglie di Scirea, scrive Nicola, ha già dichiarato di voler togliere il nome alla curva. No, non è vero, Nicola. Donna Mariella ha detto di voler parlare con questi ragazzi, così li ha chiamati lei, per trovare una soluzione, perché così non si può andare avanti, ha detto, però no, non ha detto di voler togliere il nome alla curva, o perlomeno non l'ha detto ancora. Carlo da Modena, buongiorno. Sì, buongiorno signor Garanzini. Dica. No, volevo solo intervenire, dare un piccolo contributo in merito al discorso che si faceva all'inizio sul prestito obbligazionario del Manchester. Sì. E con il signor Tarelli analizzavate il fatto che il tasso di rendimento di questa obbligazione era intorno al 7%, che era un tasso un po' stupefacente. Sì. E secondo me questa cosa si spiega che solamente perché l'investimento sarebbe ad altissimo rischio, perché dare un tasso di interesse così alto in questo momento, dove i tassi sono vicini a zero, praticamente indica che un investimento di quel genere lì ha un rischio significativo. Se si può fare un paragone magari con, non so, qualche anno fa i bond argentini che rendevano il 9%, poi sappiamo tutti che fine hanno fatto, ecco. Certo. Quindi era solo così, dare un piccolo contributo su questa cosa qua. Sì, sì, grazie, grazie Carlo. Io pensavo addirittura di far intervenire il nostro esperto del Sole, Marco Bellinazzo, proprio su questo argomento, ma è ovvio che in un momento come questo leggi 7% e capisci che c'è qualcosa che puzza, insomma. Certamente sta puzzando la gestione di questo Malcolm Glazer, proprietario del glorioso Manchester United. Marco ha chiamato da Verona, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Carantini. Dica. Un'informazione, cioè una domanda breve. Allora, io sono tifoso del Chievo, vado a vedere la partita con l'intento di vedere uno spettacolo, non ho altri intenti, no? Sì. E quindi faccio una domanda da ignorante, cioè io ultimamente sono andato e due volte mi hanno fermato, giustamente mi hanno fermato, uno perché avevo una bottiglietta d'acqua con mio figlio, pensavo di dargli da bere, ho dovuto lasciarla fuori di plastica, e un'altra perché pioveva e avevo un ombrellino piccolino e ho dovuto lasciarlo fuori, giustamente. Sì. Allora, mia domanda da ignorante, dico, com'è possibile che invece in certi stadi, a Torino con la Juve, ma anche a Milano, ma anche a Roma, si sentono di quei botti incredibili, come fanno a portare dentro petardi, bengala, fumogeni? Dove li mettono? Li mettono nei tubi delle bandiere, c'è qualcuno che glieli porta fuori dalle sferrate, c'è qualcuno che dentro glieli dà. Sono già direttamente in certi arsenali a domicilio, in qualche stadio, in certi casi. Marco, a chi, dato che la domanda ovviamente non può essere rivolta a me, no? Perché lei capisce bene che a chi la giro, secondo lei? A chi la vorrebbe girare? Succede, perché non lo evitiamo? Perché com'è possibile che si guarda una Ferrara dopo Napoli-Juve di Coppa Italia è stato intervistato a bordo campo, non riusciva neanche a parlare, sembrava di essere in guerra. Sì, sì, è vero, è verissimo, e infatti quella fu una partita limite dal punto di vista dei rumori ambientali, no? Ma rumori violenti, pericolosi. Poi si è scoperto che si lanciavano le bombe carta o i petardoni tra di loro, e ci sono stati poi dei feriti. Qualcuno fuori è stato identificato poi. Perché fuori dagli stadi, viva Dio, lo Stato ha ancora il diritto di mandare la polizia. Dentro no, e le ripeto, io sto decisamente col presidente Blanc. Alessio, in linea da Roma, buongiorno. Sì, salve dottore, buon pomeriggio. A lei. Sì, io sto, diciamo, con un mio gruppo di amici qui, siamo in un club, e volevamo dire che per la partita di Juventus-Roma di sabato sera stiamo aspettando con ansia la designazione arbitrale, perché sappiamo già che sabato sera noi temiamo fortemente Come Oriali per Inter Milan. Non l'ho sentito la dichiarazione. Con la differenza che Oriali è un tesserato un po' più grave, i tifosi li capisco di più. No, nel senso che sa, qui a Roma si dice che quando uno rimane scottato con l'acqua calda poi ha paura anche di quella fredda, e dato che comunque in passato abbiamo assistito a scandali che poi, insomma, come abbiamo visto, sono stati puniti con anche diverse sentenze, siamo sicuri, quindi volevamo quasi rassicurare i tifosi della signora che sabato sera con qualche pacco. E poi volevo inoltre aggiungere che bentornati tra i comuni mortali ai juventini. Sì. Cioè, mentre prima in momenti di crisi, no, interveniva l'aiutino qui e l'aiutino lì, questo è quello che si prova andando ogni domenica. E allora perché è così preoccupato per sabato sera, Alessio? Perché rientra Bettega, la Juve in crisi, tutte le polemiche, credo che sabato sera io personalmente, nonostante la mia squadra andando alla grande, firmerei per un punto, ma non perché... No, cioè, perché così Ranieri potrebbe comunque restare due punti avanti a chi lo scorso aprile lo licenziò o maggio a tre giornate dalla fine. E su questo, sul fatto che, che Ranieri possa guardare in faccia chi l'ha licenziato in quella maniera da una posizione di superiorità, sinceramente condivido. Questo condivido. Sul resto andiamo a Perugia da Gianluca. Buongiorno. Sì, buongiorno. Io volevo semplicemente aggiungere un altro caso all'incongruenza o alla poca chiarezza del giudice Tosel. Mi ricordo che io sono tifoso del Napoli, mi ricordo che per un Napoli-Frosinone in Serie C per 4 petardi venne squalificato il San Paolo per 4-5 giornate, giustamente, sono d'accordo in quel caso, mentre nell'ultimo derby di Roma è stata interrotta la partita, è stato posticipato il fischio d'inizio per il lancio di petardi e non è stato squalificato lo stadio ma semplicemente dato una multa alle società. Quindi sono d'accordo che a volte non si capisce da dove arrivano queste sentenze, e in compenso si capisce che qualche sconto per l'Olimpico Romano c'è spesso e volentieri. Questo non è una cosa che dico con piacere, ma che mi pare sia abbastanza sotto gli occhi. Pasquale Cataldi chiude con una battuta sulla chiusura della curva della Juve per Juve-Roma: se fossi uno qualunque dei giocatori contestati juventini ai quali vi hanno detto di vergognarsi, risponderei sì, mi vergogno, ma di avere tifosi così. Sì, poi la vorrei vedere, caro Pasquale, andare al campo in mezzo, il campo allenamento in mezzo agli ultra. Buon pomeriggio a tutti, grazie a Filippo Aureggi in regia, Franco Piantanida in redazione, Giornale Radio.